Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Francesca Cristina, Rubinetti Design e Tecnologia, di Alessandra Scaglioni. L'impresa di cui vi raccontiamo oggi la storia ha un nome di donna, Cristina Rubinetterie, e ce la racconta una donna, Francesca Cristina, terza generazione della famiglia, alla guida con il padre Alberto di un'azienda della provincia di Novara che esporta in 62 paesi, che continua a crescere nonostante la crisi e che è stata fondata dal nonno. Questa storia comincia nel 1949, quando mio nonno Ezio Cristina decide di fondare insieme inizialmente a un socio e lascia l'osteria di famiglia per intraprendere una nuova attività che in quegli anni, nel dopoguerra, stava diventando nella nostra zona molto popolare, quella proprio della produzione di rubinetteria. Inizialmente in un piccolo locale adibito con un paio di torni per lavorare il materiale, poi sempre di più, fino a quando negli anni 70 è subentrato mio papà e nei primi anni 90 poi sono entrata io in azienda. A oggi siamo ancora io e mio papà che la mandiamo avanti. Lui si occupa principalmente del mercato italiano, di tutto quello che è la parte tecnica, e io lo supporto con il commerciale estero, e da poco tempo ho preso anche in gestione tutto quello che è il mondo degli architetti. La tipologia di prodotto e il settore di mercato da presidiare è stato identificato da subito. Alto di gamma, base sul mercato italiano e grande attenzione ai mercati esteri. Diciamo che fin dai tempi di mio nonno abbiamo sempre cercato di orientarci verso un prodotto di alta gamma. Quindi è sempre andata, tra virgolette, bene, nel senso che ci siamo sempre orientati verso un certo tipo di clientela esigente. Quindi abbiamo dedicato tante energie, abbiamo investito tanto denaro proprio per mantenere sempre un livello qualitativo alto, non rincorrendo il fatturato come purtroppo tanti hanno fatto, abbassando i margini, abbassando il valore del prodotto stesso. Noi, anzi, il nostro è un prodotto conosciuto per il prezzo sicuramente non basso, ma per una qualità eccelsa. Quindi quel tipo di mercato c'è nonostante tutto, e c'è sempre di più la richiesta di un prodotto affidabile, di design, ma soprattutto ben fatto, ecco. Proprio ieri tornavo dalla Francia con mio papà e mi raccontava che già a metà degli anni 70 andava in Svizzera con mio nonno, avevano i primi clienti Svizzera, Francia, quindi Cristina si è subito orientata verso diversi mercati, non solo verso l'Italia, fortunatamente, perché visto come sta andando un po' il mercato in Italia al giorno d'oggi, il fatto di avere 62 paesi da servire ci ha aiutati a non perdere fatturato nonostante la crisi, e anzi ancora quest'anno a crescere rispetto all'anno scorso. Francesca Cristina è giovane, ma lavora in azienda da molti anni. Ha iniziato subito dopo il liceo, partendo dalla fabbrica e arrivando alla responsabilità dei mercati esteri. Comunque resta il mercato più importante in assoluto, perché insomma siamo in Italia e siamo molto ben conosciuti, e il grosso ancora lo stiamo facendo in Italia. Comunque l'estero ogni anno cresce sempre di più, ogni anno porta via un pochettino dall'Italia, e io conto nel giro di 3-4 anni il 70% del nostro fatturato sarà all'estero. Per il passaggio generazionale in azienda la strada è già tracciata, è quella dell'affiancamento e della condivisione della responsabilità. Alberto è presidente, Francesca vicepresidente. Noi non c'è ancora stato il passaggio, perché mio papà è giovane e io lavoro in azienda per contro da 20 anni, quindi siamo cresciuti anche da un certo punto insieme, tuttora collaboriamo, ognuno ai suoi spazi, ci confrontiamo tantissimo, quindi non ci sarà mai questo passaggio generazionale che il padre cede il posto alla figlia. La nostra forza è proprio il fatto che collaboriamo, quindi è una grande forza, sì. Il fatturato è di 50 milioni di euro, diviso tra un 40% in Italia e il 60% all'estero. L'Europa in generale, principalmente la Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera, l'Inghilterra. Siamo molto ben posizionati in Europa e poi stiamo entrando in tanti grandi mercati come il Sud America, dove avremo una nostra filiale Cristina Sud America. La Russia, un mercato dove oggi siamo veramente pronti con dei prodotti specifici, perché poi in ogni mercato hanno delle richieste particolari, sia a livello estetico che a livello proprio di caratteristiche di prodotto, e noi siamo ben strutturati, una grossa, cioè un'azienda abbastanza grande, siamo in 260, quindi siamo pronti per affrontare mercati dove le esigenze sono totalmente diverse da quelle del mercato italiano. Si tratta di mercati dove anche le caratteristiche dei prodotti, sia tecnologiche che di design, devono essere diverse e che portano l'azienda a realizzare diverse linee di produzione. Certo, caratteristiche diverse sia per quanto riguarda magari la portata dell'acqua, l'attacco dei flessibili, ma anche proprio l'estetica. I modelli che vanno di più sul mercato russo sono totalmente diversi dai modelli che piacciono al mercato italiano. Sono i modelli dove magari le maniglie sono fatte di cristallo. Ecco, noi manteniamo un filo logico, quindi noi siamo un'azienda che fa un prodotto di livello, di classe, quindi non vogliamo stravolgere un po' la nostra politica, però stiamo sviluppando dei prodotti magari con delle maniglie di cristallo piuttosto che la finitura in oro che in Italia non si usa più, la cascata, quella piace in questo momento, piace un po' in tutti i mercati, però principalmente in quei mercati te la chiedono in finiture particolari come l'ottone antico, il bronzo, il rame, l'oro. E ancora una volta un'azienda italiana vende stile in tutta Europa e anche tecnologia in mercati molto avanzati da questo punto di vista, come ad esempio il mercato tedesco. Vendere ai tedeschi è veramente difficile, si fa fatica. Noi oggi, la Germania è uno dei nostri mercati principali, quindi vendiamo tanto. Vendiamo a un livello molto alto, vendiamo proprio le nostre linee più importanti. Loro stanno molto attenti, molto più che al design, proprio alla qualità del prodotto, alla tecnologia che c'è all'interno di quel prodotto. E abbiamo, anticipo, presenteremo in fiera a Bologna questa nuova gamma di termostatici, che sono quei rubinetti che regolano e fissano una certa temperatura. E l'abbiamo sviluppata anche grazie ai suggerimenti dei nostri clienti tedeschi, che in campo di rubinetteria sono i grandi maestri. Quindi oggi ci presentiamo a Bologna con una gamma termostatica che nessun altro ha, completa, che sicuramente ci aprirà le porte per i progetti dei grandi alberghi, per i progetti di un certo livello. Oltre alla tecnologia, il lavoro riguarda lo stile e il design, importanti sia sul mercato italiano che su quello internazionale. Noi realizziamo i nostri rubinetti principalmente grazie a idee sia nostre, perché abbiamo una grande esperienza nel mondo della rubinetteria, quindi chi meglio di noi può realizzare un rubinetto che poi deve anche funzionare, non è una sedia o un tavolo, ma anche grazie al supporto estetico di designer veramente conosciuti, importanti nel mondo, come Machio Asuik, Jean-Michel Villemotte. Stiamo ora trattando con altri nomi che non posso fare in questo momento, ma di fama mondiale, e questo è molto importante perché ai clienti piace abbinare il tuo rubinetto a un nome di un designer, di un architetto conosciuto, famoso. Quindi questo è importante. Poi certo noi dobbiamo ingegnerizzarlo, a volte stravolgiamo un po' l'idea iniziale, ma questo fa parte del gioco. Il rubinetto deve funzionare, deve dare acqua. 260 dipendenti con due stabilimenti a Gozzano, in provincia di Novara, dove viene realizzato l'intero ciclo produttivo. Parte dal disegno, dall'idea, dall'ingegnerizzazione della prima idea, fino poi alla prototipazione che facciamo internamente, Da lì poi, tranne la fonderia, tutto il resto viene fatto internamente, quindi la pulitura del prodotto, la lavorazione meccanica, la cromatura, tutto l'assemblaggio nostro interno, il controllo. Noi facciamo diversi controlli durante tutta la fase di produzione e questa è la nostra forza, perché noi non siamo commercianti, noi siamo produttori, questo è importantissimo, non vendiamo fumo, un marchio, cioè noi vendiamo un prodotto. Il passaggio successivo, quello della distribuzione, avviene attraverso distributori esclusivi nei diversi paesi. Ma abbiamo dei distributori, in ogni mercato abbiamo un distributore in grado di coprire tutto il mercato, sia per quanto riguarda i progetti piuttosto che il retail. In ogni mercato operiamo in questo modo. In ogni mercato identifichiamo un distributore in grado di coprire tutto il suo mercato e quindi a sua volta decide di creare una rete di vendita tramite showroom piuttosto che a sua volta altri sub-dealer per non creare concorrenza, perché non vogliamo che, cioè noi vogliamo che i nostri clienti guadagnino per essere soddisfatti di vendere il nostro prodotto, quindi non voglio creargli concorrenza all'interno del suo mercato. Ma i progetti per il futuro guardano anche all'estero, a mercati da conquistare fuori dall'Europa. Come le dicevo, stiamo aprendo una filiale in Sud America e quindi quello per me è un grandissimo progetto che voglio portare avanti molto seriamente e che mi impegnerà molto nei prossimi 2 anni. Distribuire in tutta l'America Latina, direttamente da lì in 48 ore in tutti gli stati. Apriremo una filiale in Colombia. E questo è importantissimo, perché non si fanno sempre solo container. Un prodotto come il nostro deve poter essere a disposizione del cliente anche in quantità inferiori nel giro di pochi giorni. E questo oltre alla Russia, che è già ben avviata, ma è un altro mercato sul quale io sto puntando tantissimo. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.